Quindi diciamo un po' l'introduzione dello spazio e della presentazione l'ha fatta già Samuele, ovviamente anch'io ringrazio il cinema, o ex cinema, Cinema Teatro Bruschi per averci dato la possibilità di presentare, di riportare Vanni Santoni a Arignano sull'Arno, l'ha ricordato Samuele, l'abbiamo già presentato fin dai tempi, diciamo, io e Samuele, almeno dai tempi di Se fossi fuoco arderei Firenze, suo primo romanzo con La Terza, se non sbaglio, del 2011. Non so se Vanni era già stato a Arignano sull'Arno a presentare anche gli interessi in comune a suo tempo, Secondo me no, di cui secondo me no. sicuramente c'è una copia in biblioteca, nella biblioteca comunale di Arignano sull'Arno, però appunto quest'anno siamo riusciti a portarlo qua a febbraio perché sappiamo che è un periodo molto caldo per Vanni Santoni, appunto è appena uscito questo suo nuovo romanzo con Mondadori, La verità su tutto, e letteralmente Vanni sta facendo una tournée quotidiana di una o due presentazioni al giorno, un po' in tutta Italia, non so se poi hai già qualche data anche fuori Italia prossimamente, penso di sì, immagino di sì, però è bello perché Vanni Santoni tutte le volte che pubblica un romanzo nuovo ci scrive dicendo: ah, sta uscendo il mio nuovo romanzo, sto organizzando la tournée in tutta Italia e all'estero, quando vengo a Arignano sull'Arno? E quindi noi ovviamente siamo sempre stracontenti di ospitarlo, insomma, di averlo qua e ci fa molto piacere che uno scrittore, appunto, nostro conterraneo, perché lo sappiamo tutti, penso, Vanni Santoni è nato a Montevarchi, e ci senta, insomma, così particolarmente, così fortemente a portare le sue opere qua, diciamo, fra la nostra gente, nei nostri territori e a portare i suoi libri anche qua a Arignano. E fra l'altro i libri di Vanni Santoni, così come questo suo ultimo libro, questo suo ultimo romanzo, La verità su tutto, non soltanto ci raccontano molte delle storie e molti dei personaggi quanto più vicini possibile, diciamo, alla contemporaneità e all'attualità anche delle nuove generazioni, ma in molti casi penso sia agli interessi in comune, il tuo primo romanzo con Feltrinelli, quanto ad esempio ai Fratelli Michelangelo, ovvero il tuo ultimo romanzo con Mondadori. I libri di Vanni Santoni sono libri che spesso raccontano personaggi e luoghi a noi molto vicini. Basti pensare che Gli interessi in comune, ambientato in Val d'Arno, ma anche, se non sbaglio, il Tecnival del Val d'Arno che racconti in Muro di Casse, il tuo libro sulla controcultura di Rave, ma non ultimo, I Fratelli Michelangelo, il tuo ultimo romanzo prima di Mondadori, insomma, prima della verità su tutto. Confluiva, diciamo, aveva come fulcro narrativo Vallombrosa, dove appunto i vari fratelli Michelangelo sparsi per il mondo si andavano a ritrovare arrivando da varie parti del globo, e lì poi c'era, diciamo, la chiosa di tutta la struttura, la costruzione narrativa. Fra l'altro anche un'altra parte di questo tuo nuovo romanzo, della verità su tutto, c'è un viaggio sugli Appennini, sulle comunità spirituali degli Appennini, ma c'è anche una parte in cui racconti una piccola vicenda, un piccolo aneddoto del protagonista Cleopatra Mancini, che ricorda appunto una vicenda d'infanzia quando inizia a pensare, quando inizia a rendersi conto del male, diciamo, fatto per consapevole negligenza, no? Come lei stessa dice a un certo punto alla sua compagna, ripensa a una serie di vicende della sua biografia, della sua storia personale, fra cui una vicenda d'infanzia ambientata appunto a Cascina Vecchia, vicino Vallombrosa. Quindi, diciamo, sono tutti i motivi per cui ci fa sempre strapiacere ospitare Vanni Santoni qua. E fra l'altro, i libri di Vanni Santoni, non ultimo appunto questo suo nuovo romanzo, La verità su tutto, io credo che sono libri, oltre ad essere scritti molto bene, ma che hanno anche la capacità di portare temi e personaggi nuovi, o comunque non convenzionali, diciamo così, non soltanto nella letteratura attuale in Italia, ma un po' anche nella storia della letteratura, credo, italiana anche contemporanea. Penso ai temi che ci racconta un po', lo sottolinea anche Nicola Lagioia, per esempio, penso anche al commento che c'è in Quarto di Copertina, in cui Lagioia stesso dice, sottolinea come tu porti nella nostra letteratura una serie di temi, diciamo, non usuali. Questo libro, ad esempio, affronta le tematiche del misticismo, della spiritualità, del rapporto fra dispositivi culturali e tecnologici occidentali, fra cui ad esempio anche quello della pornografia, e filosofie e religioni orientali. Quindi sono temi apparentemente distanti dalla nostra tradizione culturale e letteraria, ma che tu, diciamo, in qualche modo attraverso i quali recuperi, no? Anche degli aspetti e degli elementi della nostra stessa tradizione culturale, della nostra stessa tradizione letteraria e apri, credo, appunto dei mondi nuovi, no? Anche nel panorama letterario, penso a quanto avevi già fatto un po' anche con le tue opere precedenti, dall'Interesse in Comune a Muro di Casse che racconta l'esperienza delle subculture, dei rave, delle controculture appunto dei rave, fino ad arrivare a, penso anche all'Impero del Sogno, no? In cui in qualche modo anticipavi già, introducevi già, sviluppavi già alcuni dei temi che poi hai ripreso, credo, e a suo modo sviluppato in questo tuo ultimo romanzo. E quindi penso che sono tutti elementi, insomma, di cui ci interesserà, ci piacerebbe discutere con te questa sera. Anche i tuoi personaggi sono sempre piuttosto non convenzionali, che secondo me, insomma, credo, rispetto a quello che è un po' il trend, insomma, il panorama letterario. O la tradizione, diciamo, da un punto di vista letterario in Italia, e credo che anche questo tuo romanzo, questo tuo ultimo romanzo, penso al protagonista Cleopatra Mancini, a tutta la vicenda da cui prende spunto poi la storia, è un altro, diciamo, dei personaggi tanto precari quanto non convenzionali che hai, credo, introdotto e cercato di portare nel panorama letterario attuale. E non so se Samu avevi qualcosa da dire anche un po' sul libro prima di. Io inizierei anche volendo, intanto con qualche parola di Vanni. Io vado una Facciamo cosa. parlare Esatto, sì, giustamente, intanto. se, che l'abbiamo portato a fare da Firenze al Cinema Brusca. Beh, la prima domanda per passare poi magari se ci va anche una lettura, che penso sia la cosa sempre più bella da fare durante le presentazioni. La prima domanda è proprio questa: come nasce questo tuo nuovo romanzo, La verità su tutto, come sei arrivato a questi temi, no? In particolare i temi dell'incontro fra dispositivi culturali occidentali e filosofie, religioni, spiritualità orientali. Ci sono degli elementi, credo, anche di continuità con le tue opere precedenti, ma ci sono, io credo, anche degli elementi di novità rispetto alla tua produzione letteraria precedente. E quindi come sei arrivato a quest'opera, come la collochi, come la percepisci all'interno del tuo percorso artistico e letterario, e diciamo così, come si passa dal raccontare i rave a raccontare le comunità spirituali orientali sugli Appennini? Allora, intanto buonasera a tutti, grazie al poeta Olmi e a Samuele Staderini per essere qua a presentarmi, mi fa piacerissimo tornare, grazie a voi per esserci, mi fa ancora più piacere essere in un posto che è stato appunto reso al pubblico, perché la riappropriazione degli spazi è un altro tema che mi sta a cuore da sempre, sperando che poi anche l'altra area, quella ancora più grande, venga resa, perché di là da quelle tende, cioè, mi hanno fatto vedere c'è uno spazio stupendo. E dunque, la verità su tutto è un romanzo che, come quasi sempre faccio, parte dalla provincia per poi andare lontanissimo. Ed è anche questo il motivo per cui te mi dici, è vero, vai al salone del libro, ti invitano a presentare il libro a Roma, Milano, Torino, Parigi, Londra. Però ci tengo sempre a mettere Rignano, così come per me è importantissima la data di ieri a Poggi Bonsi, Giustamente. perché siccome io di santo in paradiso non ce l'ho mai avuto neanche mezzo e tutto quello che ho preso letterariamente me lo sono preso con le unghie, certo non dimentico quando 10 o 15 anni fa i libri li presentavo solo a Rignano o a Poggi Bonsi e quindi la mia gratitudine resta e penso sia importantissimo, anzi a continuare a portarle nei luoghi che mi hanno permesso di cominciare a rapportarmi con un pubblico. E poi, invece, più narrativamente, quello di partire dalla provincia è una cosa che faccio sempre, la verità su tutto si svolge in larga misura in Tibet, in India, ma parte da Montevarchi, Firenze, Vallombrosa, Pontremoli, località non vicina a qui, ma sempre profonda provincia toscana, o meglio lunigiana, dato che, come sapete, sicuramente la lunigiana fa parte della Toscana, però non è certamente Toscana, né è Liguria, è un territorio con una specificità storica e anche culturale, estetica, tutta sua. Perché questo? Mi è stato chiesto varie volte, penso che la spiegazione sia quella che dava Philip Roth, che pur vivendo da anni a New York, in genere i suoi romanzi li faceva sempre partire da Newark, che è certamente molto meno interessante di New York, d'accordo? Potrebbe stare appunto come può stare un paese del Val d'Arno a una grande città italiana o europea. Perché? Perché lui c'era cresciuto, quindi i posti in cui te hai cominciato a guardare il mondo, specialmente durante l'infanzia, sono quelli che hanno formato il tuo sguardo. E quindi quando devi scrivere un romanzo, specialmente se è un romanzo e deve andare, che deve volare alto, e deve andare in posti anche lontani, e deve trattare temi grossi, se tu parti con i piedi ben piantati per terra, molto probabilmente ti troverai meglio. Aveva detto qualcuno, mi sa Chekhov, che chi abbandona il proprio locale per cercare subito l'assoluto si copre in genere di ridicolo e si rivela un provinciale. Chi invece parte dalla provincia e accoglie dentro di sé il locale potrebbe anche arrivare all'assoluto. Questa è una lezione che ho sempre trovato molto, molto mia, anche linguisticamente, perché poi questo è un libro in cui nelle parti magari di prosa pura c'è una certa ricerca linguistica, ma certamente Leopardo Mancini parla toscano, anzi parla valdarnese, anzi parla proprio quel valdarnese un po' temperato dal fiorentino, che è proprio di chi è cresciuto a Valdarno e poi è andato a fare l'università a Firenze, come me. Cosa racconta questo libro? Questa è la storia di un percorso di ricerca spirituale, quindi si potrebbe dire che il modello letterario più noto, anche se in realtà ce ne sono molti, è il famoso Siddhartha di Hermann Hesse. Con però una differenza sostanziale, che non siamo nell'India del Medioevo, ma siamo nell'Europa, nell'Occidente contemporaneo, il che porta delle solide differenze. Primo fra tutti il fatto che un percorso spirituale del mondo contemporaneo tende a non venire preso sul serio. Finché è un hobby, finché vai al corso di meditazione la domenica, o vai a fare un seminario di Vipassana per un mese, o vai alla messa e una volta alla settimana, tutto ok, ma nel momento in cui uno invece intraprendesse un percorso di adesione integrale, cioè una vera ricerca dell'illuminazione o della santità, che richiede ovviamente di abbandonare tutto, lasciarsi tutto dietro, è chiaro che la reazione dei suoi vicini, dei suoi affetti, dei suoi colleghi di lavoro, delle persone che intorno sarebbe: ok, questo ha perso il capo definitivamente. Perché non siamo più una società che è disposta ad accettare questo tipo di adesioni integrali, e siamo anche una società che ha accettato, esattamente come per l'uomo medievale, il paradigma in base al quale si definiva la realtà, era il paradigma magico e il paradigma religioso. Oggi siamo nel paradigma psicanalitico o psicologico. E quindi tutto viene letto in questa chiave, e quindi uno che improvvisamente decide di fare l'eremita vuol dire che è in crisi, per usare un termine per l'appunto che viene dall'armamentario semantico della psicologia. Il che per un romanziere è più interessante, più problemi ci sono, più un libro è interessante. Quello che tu dici, i temi sotterranei, su qua mi piace citare una recensione di Daniele Giglioli, è un mio libro che si chiama La stanza profonda, è un libro che parla dei giochi di ruolo. La stanza profonda è un libro che nasceva in continuità con Muro di Casse, che era un libro che invece parlava del mondo dei rave. Apparentemente i giochi di ruolo rave sembrano qualcosa di molto diverso. In realtà hanno dei punti in comune molto forti. Sono entrambi delle sottoculture che sono state create da chi ne voleva fruire. Cioè, i giochi di ruolo e i rave sono stati inventati dagli stessi giovani che volevano ballare o giocare ai giochi di ruolo. Non sono stati calati dall'alto e venduti a un pubblico, d'accordo? Questo già li caratterizza come fenomeno già di base controculturale. Poi hanno avuto un percorso prima di sotterraneità, poi hanno iniziato a emergere, sono stati criminalizzati dalla stampa. Adesso i raver sono stati accusati di essere vandali o tossici, fake news di tutti i tipi. I giochi di ruolo sono stati accusati di essere scapismo, di istigare i giovani al suicidio, addirittura al satanismo, alla magia nera e quant'altro. E poi però negli anni la loro importanza culturale ha fatto sì che in qualche modo influenzassero con forza il mainstream. Oggi la musica techno la senti pure in palestra. Oggi i profili nei social media sono basati sulle schede dei giochi di ruolo, no? Quindi in realtà erano due cose piuttosto simili. Però c'era un punto in comune ancora più profondo che io non avevo colto. Per fortuna l'avevo colto attraverso il libro, e poi un critico me l'ha spiegato, come sempre succede. Si dice che un libro è riuscito se è più intelligente del proprio autore. Nel mio caso, essendo io tonto, è facilissimo, sono sempre più intelligente di me i miei libri. Però Giglioli fece un'osservazione davvero acuta, perché disse: questo andare a radunarsi nottetempo in un'industria abbandonata, no, occuparla per fare un baccanale, o questo riunirsi in un garage o in una cantina per giocare a Dungeons and Dragons e evocare mondi immaginari, lui dice: queste sono le nicchie, gli anfratti in cui è andato a nascondersi il desiderio utopico contemporaneo. Questa lettura per me è stata proprio illuminante, perché è vero che noi siamo una generazione che ha visto sulla sua pelle, proprio a cavallo dei due secoli, la progressiva e rapidissima riduzione della propria possibilità di agire politico. D'accordo? Qualunque tipo di azione politica ci è stata negata, e quando abbiamo provato a farla un po' con più forza, c'è stato il momento simbolico, no? Genova 2001, in cui con un morto sull'asfalto e la gente pestata e torturata, c'è stato fatto capire che non si fa. E se poi andate a rivedere, cioè, il movimento cosa chiedeva 20 anni fa? Blando riformismo, cioè la Tobin Tax, una tassa dell'1% sulle rendite finanziarie. Oppure diceva, asseriva che se si continuava a non prendere in considerazione la real cost economy era un problema, cioè il fatto di produrre un sacchetto di plastica costa un centesimo, ma solo perché non si rende conto che dopo questo sacchetto inquinerà il mondo per 5.000 anni. Oppure dire, guarda, il lavoro in Italia costa tot perché è il frutto di decenni di lotte dei lavoratori per avere dei diritti, quindi se te lo esporti a pari in Cina e costa meno perché lì i diritti non ce li hanno, e questo rischia di rodere i diritti anche di qua. Insomma, tutte rivendicazioni che oggi non sembrano proprio certo estremistiche, anzi sembra un blando riformismo. Questo blando riformismo mazzata in testa. Quindi noi abbiamo visto che il desiderio utopico, non vorrei manco dire rivoluzionario, perché noi eravamo già una generazione che dopo gli anni di piombo, dopo il riflusso, dopo gli anni 80, l'orizzonte rivoluzionario manco esisteva, e sono andate a nascondersi. Perché cosa sono i rave o i giochi di ruolo, o forse anche il misticismo visto da alcuni punti di vista? Non sono forse dei tentativi di creare dei mondi altri? C'è un filosofo, Hakim Bey, in realtà americano, questo è il suo pseudonimo, che parla di zone temporaneamente autonome, no? Cioè invece di le TAZ, invece di cercare di cambiare la società, visto che questo era diventato impossibile, e siamo andati verso la creazione di piccole zone di autonomia in cui se non altro si sfoga questo desiderio utopico. Ecco, è possibile che questo sia proprio il leitmotiv dei libri che ho scritto. E come sono arrivato a questo libro? Difficile dire, i libri sbocciano sempre in dei modi che all'autore sfuggono. Volevo parlare di misticismo perché appunto io stesso avevo avuto delle esperienze mistiche, e una delle quali molto intensa proprio nei prati di Vallombrosa, e in qualche modo per venirne a capo avevo letto un sacco di testi sacri e avevo cominciato una riflessione su questo. E I fratelli Michelangelo, il mio romanzo precedente, era un avvicinamento a questo tema, perché Antonio Michelangelo, diciamo il protagonista ombra dei fratelli Michelangelo, era un uomo che aveva avuto successo in quasi tutti i campi, era stato un uomo di grande successo nel lavoro, era un uomo che aveva avuto molto successo con le donne, aveva avuto 3 famiglie facendo ovviamente dei disastri a livello personale. Era pure un artista riconosciuto nonostante lo facesse come hobby, però siccome era un uomo del Novecento, quindi siccome la sua matrice chiave in fin dei conti era il materialismo storico, il quarto purusharta, per dirla all'indiana, cioè la realizzazione non soltanto edonistica, non soltanto lavorativa e non soltanto artistico intellettuale, quella spirituale, che è anche la più alta, gli sarebbe sempre sfuggita. Però nei fratelli Michelangelo cominciavo a carezzare questo tema, che però era difficile, e quindi ci è voluto poi un altro romanzo. Certo. Beh, io direi, chi non ha avuto delle esperienze mistiche importanti a Vallombrosa, insomma, cioè, credo che sia un... qua, cioè, penso che ci sia un... ne potremmo parlare, insomma, per tutta la settimana. Un convegno su Vallombrosa. Tra l'altro è raccontato, perché questa cosa è raccontata a me, gli interessi in comune, con un po' di libertà romanzesca, però nel 2000, sarà stato il 2002, era un famoso 2 giugno, mi ricordo perfettamente, andammo su a Vallombrosa in un campo con un bel gruppone di sodali valdarnesi, e si mangiò i funghi psichedelici, e che ci diedero un afflato visionario spropositato, inatteso. E a un certo punto qualcuno, di fronte a queste visioni che sfidavano appunto la lettura intellettualmente, la mediazione dell'intelletto, della cultura, per andare oltre a qualcosa che era un puro esperire, qualcuno disse: questa roba è analizzabile solo con le categorie dello spirito. Lì probabilmente si accese l'idea, e poi ci sarebbero voluti appunto 20 anni. Ma che succede? Perché Allora, vabbè, c'è già la domanda del... No, no, bene, ma sì, ma sta scherzando, benissimo, cioè di solito alle presentazioni c'è sempre: ci sono domande? Dai, su, fatele, tutti cercano nello zaino come a scuola. Quindi se qualcuno fa domande aperte penso sia gradito. Assolutamente. No, allora, Vallombrosa per me è fondamentale, come vedi c'è qui, c'è nei fratelli Michelangelo, c'è anche il muro di Haas. E c'è anche nei interessi in cui non se ne esce. Allora, Sicuramente è fondamentale perché è un luogo in cui venivo portato da piccino d'estate in villeggiatura. Era un luogo abbastanza misterioso, Valle d'Ombrosa, no? Perché è un luogo decaduto. C'erano questi grandi alberghi in cui non andava più nessuno, c'era l'abbazia, c'erano gli eremi, le caverne, le cappelle, c'erano ancora gli animali. Comunque era un luogo abbastanza selvaggio, la foresta era molto profonda, quindi l'incontro con l'alterità, che fosse il gatto selvatico, il cervo, la vipera, era frequente. E... ma non era soltanto questo, è che Valle d'Ombrosa ha avuto proprio... dei momenti di splendore incredibile, no? Di cui ci sono ancora gli echi. Valle d'Ombrosa nell'anno 1000, quindi nell'alto medioevo possiamo dire, era un polo spirituale e anche politico importantissimo. L'abbazia di Valle d'Ombrosa nell'alto medioevo era importantissimo, e l'ordine vallombrosano controllava abbazie fino nel nord della Germania. Bene. Poi dopo altri ordini diventarono più importanti, i benedettini in particolare diventarono un po' egemoni e in qualche modo si inglobarono pure l'ordine vallombrosano, che poi divenne via via sempre meno importante. Ora nell'anno 1000 era importantissimo, e attorno a questa abbazia c'era tutta una punteggiatura di eremi, caverne, cappelle in cui vivevano eremiti. E non solo, nella società dell'alto medioevo chi era passato al bosco, i banditi, bandito parola che rimanda al fatto di essere espulso, chi era stato cacciato dalle città e così, spesso si riorganizzava nei boschi, vivendo una vita dura, a castagne o magari andando a chiedere ai frati un po' di pane, no? Quindi era un mondo sotterraneo, era il mondo dei disertori. Io sono sempre stato amante, ancor più che dei ribelli, dei disertori, d'accordo? Infatti non sono mai stato d'accordo con Tolkien, che dice una cosa è chi fugge da una prigione, una cosa è chi diserta. A me garbano entrambi, ecco. E quindi era un luogo che mi ha sempre ispirato tantissimo in questo senso. Ma non solo, perché Valle d'Ombrosa ha avuto una seconda fase. Ai primi del Novecento Valle d'Ombrosa divenne un ritrovo del jet set, venendo di moda le stazioni climatiche. C'è ancora la scritta stazione climatica, era di moda Davos, no? In Svizzera, dove è ambientata infatti la montagna incantata di Thomas Mann. E lì diventò il punto di ritrovo della nobiltà italiana. Durò pochissimo, perché poi ci fu la Prima Guerra Mondiale, poi ci fu l'annessione di Trentino Alto Adige, vennero di moda le Alpi e Valle d'Ombrosa fu abbandonata. Valle d'Ombrosa restano degli alberghi tipo l'Acqua Bella, andatela a cercare, ormai è sommersa la vegetazione. L'Acqua Bella è un albergo tutto in stile liberty, bellissimo. Noi da bambini si andava di notte con le torce a fare, a esplorarlo, tipo per giocare ai Goonies. E ancora nella stessa condizione di quando... Sarà messa pure peggio, visto che io ci andavo, era completamente disastrato quando ci andavo io 35 anni fa, figurati come è messo adesso. Questi vetri rotti, no? E così. E ce ne sono di posti così a Valle d'Ombrosa, ma quindi questa sorta di decadenza. Io ho sempre avuto anche un po' una poetica della nostalgia della decadenza, cioè mi garbano più queste cose qua. La fioritura e i trionfi sono sempre sospetti, mi garbano più le cose che decadono. E Valle d'Ombrosa incrocia tutte queste suggestioni, ma c'è ancora di più, perché Valle d'Ombrosa ha avuto pure uno squallido tentativo di rilancio negli anni Ottanta, no? Squartando un pezzo di montagna per fare un residence come se si fosse a Courmayeur, che era completamente ridicolo, crearono negli anni 60, crearono le stazioni, cioè gli ski lift, no? Lì c'è la neve in secchiato un anno su quattro, fa bene, ora neanche, ora un anno su 1000, perché non c'è più, no? Poi crearono il centro congressi, un pala congressi brutalista di cemento gigante, non c'è mai stato fatto nulla se non tipo mostra delle disegni dei bambini di Reggello. Ammazza, ci voleva un coso di cemento di 10.000 metri cubi per una cosa del genere. Quindi anche incarna per certi versi anche quel momento anni 80 in cui si pensava di poter rilanciare tutto, no? Qui è un luogo di grandi contraddizioni e quindi mi garba. Capito? Cioè. Andiamo a scoprirlo oggi. Tra l'altro in un passaggio del libro... Dai, anche io questa cosa non la sapevo, di Milton. Vabbè, è un passaggio. Sì, questo, no, poco, questo è un passaggio cruciale. Che Milton avrebbe preso spunto a Valle d'Ombrosa. Non solo, c'è proprio stato, c'è una targa al paradisino, e lo possiamo dire senza condizionale. John Milton ha scritto una parte del Paradise Lost a Valle d'Ombrosa, precisamente al paradisino, che è quella struttura bianca che prima era un po' più un eremo, un po' più grezzo sopra l'abbazia. Lui si ritorna lì e c'è un passaggio di Paradise Lost in cui dice: "Oh, Valle d'Ombrosa, where the Etrurian arches and bower", qualcosa del genere, e perché diceva che quella foresta particolarmente oscura lo aveva ispirato per le visioni infernali, perché la foresta di Valle d'Ombrosa, tra l'altro, non è endemica non è una foresta toscana. Vallombrosa ci sono gli abeti, ci sono i Douglas, ci sono addirittura le sequoie, perché i monaci importavano semi da tutto il mondo, e quindi non è la classica foresta toscana che sarebbe fatta di castagni o aceri, come è infatti fino a Pietrapiana. Poi arrivi a Vallombrosa, si butti nel bosco, è una foresta alpina, germanica, anche questo è interessante, no? Sono luoghi di alterità, per questo in questo libro io un altro luogo ho scoperto invece da grande, ma me ne sono innamorato subito, è Pontremoli. Pontremoli è anche impressionante, è un paesino completamente distrutto, no? Che ha avuto un, però della, una gloria incredibile. Oggi Pontremoli avrà 5.000 abitanti, 6.000, però vai a Pontremoli, vedi ci sono i palazzi di 500 con il chiostro dentro e le statue, no? Vai, entri in una chiesa di Pontremoli, è tutto fatto in stile rococò, barocco, con oro zecchino e affreschi, dici ma che succede qui, no? Cioè, 5.000 abitanti, ci sono 10 duomi, va bene, palazzi di 500, perché Pontremoli nel tardo medioevo, tra il tardo medioevo e il rinascimento fino al 700, a un certo punto diventò importantissima perché era la dogana della Francigena, va bene, quindi tutte le merci passavano di lì e quindi i pontremolesi divennero ricchi sfondati. Poi vennero aperte le varianti di Valico e a quel punto le merci passano da altre zone e Pontremoli decadde, e anche lì Pontremoli e Vallombrosa, anche se esteticamente differentissime, si assomigliano in questo, e io ovviamente in questi luoghi qui proprio mi ci innamoro regolarmente. Bene, quindi adesso la prossima volta portiamo, ci facciamo portare da Vanni Santoni in gita a Vallombrosa, la prossima, il prossimo romanzo di Vanni lo presentiamo direttamente all'abbazia di Vallombrosa. E quindi venendo un po', tanto diciamo, grazie per questo excursus vallombrosiano e pontremolese, di cui salvo Milton insomma e qualche altro aneddoto, tipo gli alberi degli aremi lo sapevo, però degli alberi piantati dai monaci no, credevo fosse endemica, invece interessante sto cosa. Però diciamo, per arrivare poi magari anche alle parti del libro in cui ci racconti, no? Ad esempio anche Vallombrosa stessa, quindi per venire un po' a questo tuo romanzo, è un romanzo che inizia con, diciamo, con un evento, con una faglia che si apre nella vita di una persona, che è la protagonista, Cleopatra Mancini, e, la quale appunto vede o crede di vedere una sua ex ragazza in un porno che trova su internet, evento dal quale ha diciamo una crisi esistenziale e a partire dal quale inizia ad avere una serie di sensi di colpa e appunto di quelle crisi psicologiche che tu stesso dicevi piacciono molto alla società psichiatrica e psicologica, appunto psicologista in cui siamo, ma piacciono anche ai romanzieri perché poi ci ricavano delle storie insomma molto piuttosto interessanti. E da questo evento, diciamo da questa crisi che la protagonista Cleopatra Mancini ha, inizia tutta una riflessione proprio appunto no, sui temi, su temi spirituali che diventano spirituali e filosofici in qualche modo al tempo stesso, no? Dalla questione del bene alla questione del male, a come si esiste nel mondo senza fare male a nessuno, comunque se mi viene un po' in mente ad esempio alcune cose, mi ha fatto pensare un po' esempio anche alla teoria del karma buddista, no? Per cui anche semplicemente un dito che si muove, una foglia agitata dal vento, diciamo, possono fare una differenza cosmologica rispetto a ciò che accade nell'universo in termini di ciò che è bene o di ciò che è male, no? E quindi a partire da questa riflessione che la protagonista ha, inizia ad interessarsi a tutta una serie di pratiche, appunto, e di ambienti anche legati alle filosofie orientali e alla spiritualità orientale, fino ad arrivare ad una comunità sugli Appennini e fino a fondare poi lei stessa una comunità spirituale che diventerà in qualche modo quasi una setta vallombrosiana, no? Per l'appunto. E quindi intanto se ti va di leggerci magari qualche estratto, qualche passaggio per introdurre un po' il romanzo. Sì. E poi magari torniamo al misticismo vallombrosiano. Vai. Allora, no, questo libro si organizza, si può dire, in tre grandi movimenti, anche se diviso in sei parti. E il primo movimento è quello appunto dell'interrogazione, cioè lei si interroga, vedendo questo video, questo, ora io non sono esattamente un moralista, lo sai bene, non è che è semplicemente un video porno, sta vedendo un video porno in cui la protagonista, che pare la sua ex, ha un'aria estremamente afflitta, succube, non sembra che se la stia spassando, ecco, sembra anzi quasi obbligata, il che fa quasi pensare, se non, più, forse peggio di un revenge porno, quasi uno sfruttamento della prostituzione in video, ecco. E da lì inizia anche un po' egoisticamente a dire allora è colpa mia perché l'ho tradita e abbandonata, lì comincia un'indagine sul problema del male, che la porta prima a indagare sul problema del male, poi da lì al problema del bene e quindi da lì a interessarsi al misticismo. Secondo movimento, quasi parte docu-fiction del romanzo, inizia a esplorare tutte le comunità spirituali più strane che ci sono in Italia, e non solo, vi garantisco che ce ne sono tante e molto strane, e fino a poi il terzo movimento, fondare la propria dottrina. Una dottrina è una comunità che inizierà a diventare sempre più grande finché non si troverà a avere addirittura 1 milione di adepti, alcuni dei quali anche molto fanatici, e quindi a trovarsi di fronte a nuovi nodi morali. Ad esempio, si può esercitare il potere senza fare il male? Non è un caso che molti santi siano stati o siano anche eremiti, perché se ti metti in un punto in cui nel raggio di 200 km non c'è nessuno, è più facile non fare male a nessuno. Mentre rimanere santi, mentre si sta in società o addirittura si gestisce la gente, diventa sempre molto, molto, molto più complicato. E spiritualità orientale, ma anche spiritualità occidentale, perché in realtà nella spiritualità occidentale, nella spiritualità cristiana, ci sono stati due movimenti, ma li possiamo considerare lo stesso in due fasi, il quietismo prima e l'esicasmo poi, che sostenevano, per capirci, forse avete sentito dire sicuramente Meister Eckhart, però altri potrebbero essere Margherita Porete, Angelus Silesius, il vescovo Fenelon. Cioè a un certo punto vennero fuori dei pensatori cristiani che, riprendendo la dottrina dei padri del deserto, quindi una dottrina già di marca orientale, di area quasi ortodossa, pre-ortodossa, iniziarono a sostenere che attraverso la preghiera e la meditazione, e attraverso le preghiere che erano brevi e molto ripetute, quindi se ci pensate molto simili ai mantra orientali, no? Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore, e dirlo milioni di volte finché non si raggiunge uno stato alterato di coscienza, quindi utilizzare un mantra per avere degli effetti appunto di alterazione della coscienza verso un'elevazione. Iniziarono a sostenere che si poteva così sviluppare un rapporto diretto con Dio, o col trascendente, come lo vogliamo intendere. Cosa voleva dire questo? Voleva dire che il prete era inutile, che il vescovo era inutile, il papa era inutile. Potete immaginare quanto questa teoria fu gradita dalle gerarchie ecclesiastiche. Fra un rogo, una scarica di mazzate, un imprigionamento e un allontanamento pacifico ma perentorio dai punti di potere, l'esicasmo fu messo ai margini della cristianità. Però appunto anche la cristianità era dotata di delle filoni spirituali molto avanzati a livello esoterico e che utilizzavano delle vere e proprie tecniche per raggiungere uno stato di comunione col divino. E per introdurre direi la cosa migliore è proprio leggere gli eserghi. In realtà non sono degli eserghi, io di solito mi piacciono molto a me gli eserghi o epigrafi all'inizio, cioè la classica citazioncina, no? Qua però invece di mettere la citazione da un altro libro, visto anche che dentro al libro ce n'è quante ne vuoi, ho pensato di mettere qualcos'altro. Questo libro, questo è un fatto importante, è raccontato tutto dal punto di vista della protagonista, cioè è lei che racconta, è lei che confessa. Infatti il titolo può avere una doppia valenza, la verità su tutto in senso mistico, ma anche la verità su tutto nel senso vi racconto come sono andate le cose. E il lettore ovviamente è libero di decidere se questa donna sta raccontando la verità, sta mentendo, sta esagerando un po', sta riducendo un po', chissà. Si presume che la persona che la intervista, che non è nominata, non sono io necessariamente, potrebbe essere il lettore o qualcun altro, l'ha cercata. Questa donna era sparita dopo il periodo in cui era diventata capo di una comunità enorme, era un po' sparita dalla circolazione e evidentemente questa persona è andata in giro per la Toscana a vedere di ritrovarla prima di trovarla. E queste forse sono le testimonianze delle persone che ha incontrato prima di trovare lei. Sì, ci sono stata 2 mesi a quella fondazione Shakti. No, non lo so come fosse nell'altra sede laggiù in India. Dove ero io, si mangiava male, si lavorava duro e le lezioni erano incomprensibili. No, non la conoscevo di persona, ma in facoltà era popolare, sì, una di quelle capette, sa, dei collettivi. Sì, sì, avevo sentito dire che era diventata una specie di santona, che aveva cambiato nome. Era come un verbo segreto che passava di bocca in bocca. Vai dalle Dee Gemelle, vai da Shakti Devi e Kumari Devi. Loro custodiscono la verità. Cleopatra Mancini? Sicuro, eravamo insieme alle elementari. Era l'unica che aveva il coraggio di contraddire la maestra. Sì, Sì, io seguì un po' la faccenda per un giornale locale, quando ancora esistevano. Sì, una storiaccia. E infatti ci scappò pure il morto. Ah, di sicuro aveva un sacco di soldi. Dove li pigliavano? Non lo chiedeva a me. Offerte, dicevano. L'ho vista con questi occhi curare una bambina solo toccandola. Con questi occhi. Ma chi? La città di Mancini carrozziere? Shakti Devi, la madre permeata di saggezza, una vera santa, anzi, l'unica vera santa. Qualcuno diceva che era morta, qualcuno diceva che era malata, qualcun altro diceva che era scomparsa in India. Io però ho sentito dire che è ancora in giro, sì sì, da queste parti, in Lunigiana. Grazie, il resto è verità su tutto. Tra l'altro, prima di lasciare la parola anche a Samuele, se ha qualche domanda, qualche suggestione sul libro, sul romanzo di Vanni, questo incipit del libro, questo diciamo esergo in qualche modo dialogato, è forse il punto in cui più di tutti mi ha ricordato, questo tuo romanzo mi ha ricordato personaggi precari. I personaggi precari di Vanni Santoro, con cui fra l'altro ha esordito letteralmente, no? Nel lontano 2007, se non sbaglio, con una piccola casa editrice. È proprio perché ci sono questi frammenti di soggettività, no? Questi frammenti di soggettività precarie, quindi questi frammenti di dialogo, queste dicerie, no? In qualche modo, come l'avrebbe definito forse Bufalino, no? In questo caso noi diciamo, no, non le dicerie degli untori, ma le dicerie, diciamo, di chi ha conosciuto, ha sentito parlare della mistica, no? E della santona, appunto, o di colei che è diventata la Shakta Devi, no? E quindi sì, mi ha ricordato molto personaggi precari, questo incipit, poi in realtà anche a livello narrativo il romanzo assume vari caratteri anche piuttosto sperimentali che già c'erano anche in alcuni romanzi precedenti, penso ai fratelli Michelangelo, tutti questi dialoghi non solo diretti ma proprio che fanno quasi tabula rasa di sovrastrutture e a volte anche narrative, non ci sono le virgolette discorsive per capirsi, no? E a volte le stesse soggettività nei dialoghi, è un romanzo ovviamente anche molto con molti dialoghi, perché c'è anche questa dimensione, no? Di questo intervistatore che va a cercare la Shakta Devi, no? Quindi la Cleopatra Mancini diventata poi santona, e inizia a voler sapere la sua storia. Fra l'altro si becca anche una messolata in testa all'inizio, perché si aspetta, diciamo, di incontrare appunto una sceta, e poi in realtà scopre di incontrare una che è diventata una santona a partire da una possibile vicenda di revenge porn o di diciamo maltrattamento pornografico. E quindi ci sono molte parti dialogate nel romanzo, ma come anche in altri tuoi lavori le soggettività si mischiano molto, no? Non c'è mai una soggettività, un personaggio dominante, anche se in questo caso c'è una protagonista, diciamo così, che è Cleopatra Mancini, ma anche questa tua scrittura in cui superi, no? In qualche modo azzeri anche ad esempio le virgolette discorsive, quindi in cui sembra che ci sia un'alchimia costante, no? Fra le psicologie dei personaggi e anche fra le psicologie dei personaggi che dialogano, che dialogano, no? Che quindi si mettono sempre in qualche modo in una struttura reticolare, no? Mai in una struttura verticale, anche nei rapporti e nelle relazioni narrative fra di loro, e le stesse soggettività si mischiano, no? Si amalgano molto fra di loro. Mi ha fatto venire in mente la lettura da fare in conclusione e me la tengo qua a segno. Beh, questa è un'osservazione importante. Effettivamente è vero che questi pezzetti di parlato che ci sono all'inizio proprio rimandano proprio a personaggi precari, e ho imparato a farlo lì. Ed è interessantissimo, e proprio non ci avevo pensato, il fatto che effettivamente quelli li ho messi fra virgolette, mentre poi dopo io non utilizzo le virgolette nel dialogato. E io non utilizzo le virgolette del dialogato, questa cosa non sapevo che si potesse fare. L'ho scoperta leggendo Cormac McCarthy. Quando lessi ormai, penso una quindicina d'anni fa, Meridiano di Sangue, vidi questi dialoghi senza le virgolette e pensai, fico, se i dialoghi li fai abbastanza bene basta andare a capo e si capisce. quindi non avevo neanche ben capito le implicazioni. Poi dopo una cosa si è un po' diffusa, per esempio anche Kent Haruf ho visto che lo fa di rinunciare ai virgoletti. Nel mio caso è verissimo che lo dici, cioè a me interessa proprio diluire un po' le individualità, no? Si potrebbe dire qua se si vuole giocare a fare il rapporto tra forma e contenuto, è chiaro, se è vero ciò che sostiene la metafisica di impronta tantrica e vedica, cioè che siamo tutti semplicemente frammenti di una sola macrocoscienza assoluta che si autopercepisce in diverse forme, questo è quanto mai adatto, d'accordo, a rappresentarlo. Mentre ovviamente questi sono virgolettati all'inizio perché siamo ancora fuori dal romanzo, no? Cioè, siamo ancora in un mondo secolare, laico, in cui le individualità invece ci sono e si rivendica. Si vedono anche parecchio bene. Vado io? Sì. Allora, io devo dire la verità. Su tutto. No, su tutto no, non mi permetterei. No, io ho letto questo libro, faccio un incipit per chi non mi conosce. Io faccio il chimico nella vita normale e quando leggo Vanni, e quando leggo gli articoli che posta Vanni anche su Facebook, e gli articoli che postano altre persone che lui magari condivide, entro direttamente, ora ultimamente anche qui si ritrova tutto il filone del tema della psichiatria. Capite bene, per un chimico. Albert Hoffman sarà un po' il vostro santino. Purtroppo ti posso dire che non è proprio così, perché Shulgin quanto è. Purtroppo nel mondo della chimica certi personaggi sono stati messi un po' non mi stupisco. Come l'esicasmo nella esatto. Però quando io affronto i romanzi e soprattutto questo, devo dire, di Vanni, ci trovo sempre anche qualcosa per leggere magari con un piano diverso, un po' trasversale, un po' obliquo, no? In questo caso, oltre al tema della psichedelia, c'è anche un... forse, non so se è stato fatto volontariamente o involontariamente, o se è un qualcosa in più, un quid in più, ma la rinuncia che fa Cleopatra al suo posto di lavoro, che comunque è un posto di lavoro che io non faccio fatica a dire che ho ambito, insomma, quello di ricercatrice universitaria, che tra l'altro è un posto che lei ha, che non esiste più, quello di ricercatrice. Quello precedente, il vecchio concorso. Esatto. Quindi io ho provato a diventare ricercatore CNR. Lei ce l'ha e non solo rinuncia per partire con questa ricerca spirituale, ma lo fa, la rinuncia, in un primo momento un po' tentennando, chiedendo il cambio di progetto, chiedendo in qualche maniera di poter rimanere a cavallo di questa cosa, forse perché nella sua coscienza il concorso truccato, e lei sa che comunque era stato vinto, sa che è qualcosa che deve rendere conto alla sua professoressa che l'ha portata fino a lì. Però a un certo punto, poi, raggiunto un certo stadio di onestà intellettuale, quando capisce che le due cose non sono conciliabili, lascia andare completamente e va incontro chiaramente a una ira crescente della professoressa, che su di lei aveva puntato, come vi garantisco chi ha fatto un po' di carriera accademica sa, si viene usati quasi come cavalli su cui puntare, su cui mettere i 5 euro, e quindi non si può deludere. Ecco, questo passaggio di Cleopatra, che a un certo punto, c'è un altro passaggio precedente che ancora lì mi ha stupito ancora di più, forse non solo dopo rinuncia, ma prima addirittura rilancia, perché si iscrive all'università, perché forse anche quello può essere un percorso di ricerca ulteriore. Ecco, tutto questo mi è sembrato, poi chiedo a Vanni chiaramente se è una mia suggestione o se è se ho centrato il punto, se è semplicemente la mia lettura della mia mente, è un modo, uno dei tanti tentativi che fa Cleopatra prima di prendere quello, o forse è come dire proviamo a non prendere la strada, che comunque so che sarà quella la strada, però magari prima di andare dritto fino in fondo provo magari questo, provo quest'altro, provo a fare come dicevi te all'inizio, a prenderla un po' più come hobby, no? La ricerca spirituale. Poi quando capisce che invece non si può fare in quella maniera, non si può fare, e allora parte definitivamente. Non so se... Ah, questo è un punto interessantissimo e me ne sono reso conto dopo, perché di fatto Cleopatra era già nata prima, stava nel libro Muro di Cassi, l'ho scelta perché appunto era una sociologa materialista di impianto marxista, laica, certamente atea, quindi usare lei per qualcuno deve diventare una santa era più interessante perché poneva più sfide narrative, no? Poi dopo mi sono accorto di un sacco di cose interessanti dal punto di vista del personaggio scelto. Il fatto che fosse una donna è interessante perché dopo, quando fonda la sua comunità, prenderà spunto soprattutto dal tantrismo. Il tantrismo in Occidente, un po' anche a causa di Sting, viene confuso con qualcosa che ha a che fare solo con sesso, no? In realtà c'entra davvero poco. Pensate che tantra comunque vuol dire libro, ok? Non vuol dire trombare. E in realtà il tantrismo parla anche di sesso, perché è una dottrina che nasceva in opposizione con le dottrine bramaniche che stavano cominciando a strutturarsi con molta forza in India, ponendo un sacco di limiti e tabù. Ad esempio, al rito può partecipare solo le caste alte, le donne non possono fare questo e questo, questo cibo è tabù, questa cosa è tabù, tabù, tabù, tabù. E il tantrismo nasceva rivendicando un principio che nella spiritualità indiana c'era sempre stato, cioè che tutto è un'emanazione del divino, d'accordo? Cioè il mondo che viviamo, questo che vedete ora, è una sorta di teatrino delle illusioni, ok? Però dietro a questo teatrino delle illusioni, dietro a questi veli di Maya, c'è una realtà immanente e trascendente che è tutta Dio, d'accordo? Non nel senso di signore con la barba che non vuole che tutti masturbi, nel senso di una sostanza divina trascendente che è ciò che anima l'universo. Dunque, se tutto è Dio, parlare di cibo tabù, cibo non tabù, uomo meglio della donna, cose del genere, è completamente assurdo. E quindi il tantrismo nacque in opposizione, nacque proprio una spiritualità rivoluzionaria che ammetteva le caste basse ai riti e che permetteva anche alle donne di essere guru. Il che era rivoluzionario, è rivoluzionario tuttora, perché basta guardare anche nella Chiesa, oggi le donne non possono fare il prete, quindi figuratevi nel tantra 2000 anni fa. E quindi il fatto che Cleo fosse una donna è stata una fortunata coincidenza, però inizialmente l'avevo scelta proprio perché mi sembrava fra i personaggi che avevo a disposizione quella più lontana dal poter diventare una mistica. E poi dopo mi sono reso conto che effettivamente era buffo, perché il posto dal ricercatore, quello del vecchio contratto, era la cosa letteralmente più ambita al mondo, no? E quindi qualcuno, se qualcuno lo lascia, dopo averlo peraltro fregato ad altri, esatto, perché c'era una lotta col coltello fra i denti, vuol dire che deve essere davvero convinto nel proprio percorso spirituale o deve aver proprio completamente perso la testa. E sulla psichedelia, parentesi breve, la psichedelia è fondamentale in questo libro come in tanti miei libri, non solo perché mi piace la psichedelia, ma perché c'è una ragione storica. Perché oggi in Occidente è tanto diffuso lo yoga, la meditazione, il buddismo, lo zen e tutte queste dottrine? Per una ragione che ha a che fare molto strettamente con la psichedelia, anche se anche in questo caso ovviamente è stata un po' nascosta la vera storia. Negli anni 60, come ben sapete, da una sostanza diffusa soltanto nei circoli intellettuali più elevati e più altoborghesi, pensate a gente come Junger, come Aldous Huxley, l'LSD si diffonde anche fra la gioventù, fra gli hippie. E come ben sapete, l'esperienza psichedelica, quando è abbastanza intensa e fatta nel setting giusto, dà origine a un'esperienza mistica, in tutto e per tutto identica a quella vissuta dai grandi mistici di tutti i tempi, anzi spesso più intensa. Quindi siamo entrati improvvisamente nell'era della riproducibilità tecnica dell'esperienza mistica, per dirla con Walter Benjamin. Solo che questi giovani che negli anni 60 prendevano l'LSD e facevano l'esperienza mistica trovavano però una società che non aveva nessuna sponda, d'accordo? Perché la società era già ampiamente secolarizzata. E che ci fai con questa esperienza mistica, a volte anche sconvolgente? Devi cercare delle risposte. Nacque così la hippie trail, no? Vi ricordate? Negli anni 60 dall'Occidente migliaia, anzi decine, centinaia di migliaia di giovani andavano verso Oriente. Andavano in India, andavano in Nepal, andavano in Tibet, poi dopo diventò così popolare ci andavano pure i Beatles, i personaggi famosi. Però cominciò dal basso. Perché? Perché là c'era ancora una sorgente vista come più pura di spiritualità, che non era stata ancora contaminata da determinate esigenze, questo in alcuni casi era vero, in altri meno, poi c'erano anche dei bei ciarlatani fra quei guru a cui andavano ad abbeverarsi naturalmente, però di fatto c'era questo grande movimento verso Oriente. Questo movimento verso Oriente dopo un po' si portò a un parallelo, dopo qualche anno, movimento verso Occidente, in cui la gente riportò indietro le tecniche, riportò indietro lo yoga, riportò indietro la meditazione, chi aveva soldi riportò indietro proprio i guru. Ci fu gente che disse, no, prese il monaco e disse, te ora vieni a San Francisco, io ti apro una scuola e te insegnerai queste dottrine, no? E quindi la psichedelia ha avuto un ruolo centrale, anzi, il ruolo base, chiave, nel riportare le dottrine della filosofia orientale in Occidente. Per la nostra generazione c'è stata una cosa simile, molto più in piccolo, la cultura rave, che ha riportato la psichedelia. Noi si veniva dagli anni Ottanta, in cui era un'epoca in cui c'erano stati dei flagelli sociali, no? L'eroina, le droghe, e in particolare le droghe pesanti, erano state problematiche, quindi gli psichedelici erano stati considerati droghe, perché erano proibiti e così, e quindi era molto difficile e ritrovare una tassonomia corretta. Oggi siamo nel rinascimento psichedelico, la medicina li riscopre, in realtà fanno bene, neurogenesi, pensate adesso l'LSD viene usato, c'è una sperimentazione importantissima per far rigenerare le cellule di chi ha avuto un ictus, quindi possono far recuperare chi ha avuto un ictus. E perché? Perché in realtà l'LSD, lungi dal bruciare le cellule del cervello, le genera, causa, è una delle poche cose che può causare la neurogenesi. Quindi ora siamo in un'epoca di rilegittimazione. A nostri tempi non era così, però il rave forse è stroncato un'altra volta. Ma senti, come è stato fatto? Senti, bisogna vedere cosa succede, perché negli anni 60 Nixon fece, istituì il proibizionismo, proibendo tutte le sostanze, compresi gli psichedelici, perché erano un po' la bandiera del movimento. L'universo va a tornare il grembo materno con l'eroina. Sì, sicuramente accadde questo. Però a quei tempi, insomma, era anche la bandiera di un movimento pacifista che agiva politicamente in modo molto forte, no? Quindi criminalizzare determinate sostanze significava avere gioco facile per criminalizzare blocchi di giovani che lottavano politicamente. Oggi questo non c'è, ma certo il rinascimento psichedelico, ogni giorno che va avanti, è guadagnato. Che ci sia il rischio di un giro di vite è possibile. Diciamo che quello che è cambiato è questo, che grazie a quello che è successo in America con la canapa, che... Scusami, stai parlando di, delle microdosi? No, sto parlando anche delle macrodosi. Psicologia? No, io sto parlando del rinascimento psichedelico. Cioè, in realtà la microdose è un fatto, ha fatto tanto spazio sul giornalismo, ma poi è assolutamente marginale, anzi tuttora ci sono degli studi che fanno sospettare che in realtà il microdosing si basi più sull'effetto placebo che su un'effettiva efficacia. No, diciamo che oggi gli psichedelici sono riscoperti in contro la depressione resistente al trattamento. Ci sono dei tipi di depressione che sono resistenti al trattamento e che ormai anche i psicofarmaci non ti fanno, poi in più i psicofarmaci danno dipendenza, rincoglioniscono, danno un sacco di problemi. Questo è, diciamo, uno dei principali. Poi, disordine da stress post-traumatico e cura delle dipendenze, perché la dipendenza, a quanto pare, più che con metadone o cose di lungo termine, si disinnesca quando qualcuno prende coscienza della schiavitù, no? E con l'esperienza psichedelica si fanno delle mega viaggi introspettivi in cui uno dice, ah, ok, sono dipendente da questo perché magari elabori un trauma o cose del genere. E i nuovi fronti sono appunto la rigenerazione di chi ha subito dei danni cerebrali a causa di un ictus o di altri tipi di problemi simili, e l'alleviamento dell'autismo, d'accordo? I psichedelici, grazie al fatto che creano nuove connessioni neurali, possono non curare in realtà, però pare che possono un po' migliorare le condizioni di chi è affetto da autismo. Tutte queste cose si ottengono non certo al microdosing, ma anzi, perché la terapia psichedelica... Il motivo per cui è anche un po' difficile da far passare presso la medicina ufficiale, ora c'è tanto lavoro sul formare gli operatori, è che non è topica. Perché noi siamo abituati a un'idea di medicina del tipo: mi fa male il capo, piglio l'aspirina, e se continua a farmi male il capo, continuo a prendere l'aspirina. Sono depresso, prendo le goccette ogni giorno. Invece l'esperienza psichedelica funziona in tutt'altro modo. La terapia psichedelica, te fai una grossa esperienza psichedelica seguito da un operatore che io questo e elabori sulla ayahuasca invece dell'autismo, dove posso leggere? Cerca LSD autism, trovi quanto vuoi. C'è anche una puntata dedicata specificamente del podcast Illuminismo Psichedelico, che è questo podcast che fa Federico Di Vita, molto bello, in cui in ogni puntata intervista un medico o un intellettuale, qualcuno che si occupa dell'argomento. E ce n'è una, sono sicuro, tipo 3 o 4 puntate fa, era proprio sull'autismo. che da chimico, chimiofarmaceutico per la precisione, posso dire che il tempo perso, proprio come ricerca di base, intendo, da Hoffman fino agli anni 90, sono circa 30 anni che ti fanno essere indietro, perché probabilmente se non fosse calata la mannaia del proibizionismo e non fossero stati messi ai margini anche della comunità accademica, perché Hoffman è chiaramente un simbolo, ma come carriera accademica non ha mai ricevuto minimamente i riconoscimenti che avrebbe meritato. Non sto parlando di premio Nobel, ci sono tanti riconoscimenti che uno può ottenere e che lui non ha mai riconosciuto, lui per dirne uno, tanto per essere. Dopo che queste molecole sono state, perché il meccanismo si conosce fin dall'inizio, perché Hoffman non cercava mica niente di... Lui lavorava per una ditta svizzera, la Sandoz. Per la Sandoz, e cercava qualcosa per, fondamentalmente per i dolori e per i problemi alla testa, quindi ci è andato, ha centrato l'obiettivo in pieno, forse troppo, e quello ha stroncato sul nascere tutto il resto. Quindi proprio per una dinamica accademica, probabilmente quelli che sono arrivati 30 anni dopo sono esattamente quelli che 30 anni prima erano a fare la hippie trail, che quando si sono trovati a essere a capo di dipartimenti, laboratori, eccetera, eccetera, hanno potuto riprendere in mano con la libertà accademica, e poi viene concessa una volta sei a capo di un laboratorio universitario, hanno detto bene, io mi metto a lavorare su questo, e producono studi, articoli, pubblicazioni, e questo ha prodotto tutto, però sono 30 anni di ritardo. Questo è sicuramente una gravissima colpa che ha tutto il mondo scientifico mondiale. No, questa cosa è verissima, però diciamo che il mondo scientifico ha anche dovuto purtroppo reagire, perché il paradosso è stato che quando Nixon ha proibito queste sostanze dicendo che gli psichedelici erano droghe, anzi addirittura droghe pesanti, e quando l'LSD ad esempio è più atossico del caffè o dell'aspirina, cioè se te prendi 10.000 caffè muori, o se prendi 10.000 aspirine, se te prendi 10.000 unità di LSD non muori minimamente, certo ti fa un bel viaggione, però dal punto di vista fisiologico è atossico, è stato non da dipendenza, anzi viene usato per curare le dipendenze, invece venne messo nel calderone delle droghe pesanti. Il paradosso fu che quando ci fu questo giro di vite proibizionistico, alle persone che volevano fare uso voluttuario rimase disponibile, perché nacque il mercato nero, però per i ricercatori divenne un inferno, perché per un ricercatore doveva fare 2000 protocolli, ricercare l'autorizzazione, così stigma, in più nel frattempo ovviamente siccome era usato dagli hippie veniva visto un po' una roba da fricchettoni, quindi non aveva più chissà quale credibilità accademica, e l'effetto fu che poi dagli anni 70 in poi la gente disse: ma perché mi devo fare tutti questi problemi, metto a studiare un'altra cosa. Sì, anche per questo si bloccò un po' la ricerca. Tuttora così, ecco, ci sono alcuni reagenti che nei laboratori non si possono acquistare con facilità, o ci vogliono autorizzazioni particolari, perché sono reagenti che potrebbero essere utilizzati per la sintesi di alcune molecole, che alcune rientrano formalmente nella lista degli stupefacenti, eroina, metadone, codeina, eccetera, eccetera, ma potrebbero essere utilizzati anche per la sintesi in laboratorio dell'LSD o di altri... Mi faceva vedere un mio amico che si occupa anche lui di chimica farmaceutica in Olanda, quindi un paese anche molto meno proibizionista di noi, però stanno lavorando sulla psilocibina, che è il principio attivo dei funghi psichedelici, che esattamente come l'LSD ha un enorme... utilità medica, ad esempio per la cura della cefalea a grappolo, che è il mal di testa più invalidante esistente al mondo, e sia con la psilocibina che con l'LSD passa all'istante, tant'è che in Inghilterra c'è un club che si chiama il club degli compratori di funghi, che hanno fatto una roba di resistenza civile dicendo: noi questi funghi ce li coltiviamo e ce li prendiamo perché col mal di testa siamo invalidi e con funghi noi ci curiamo. E lui mi ha raccontato che anche in Olanda, dove c'è tolleranza rispetto alle droghe leggere e anche i funghi, ci sono gli smart shop che comunque li vendono, per un ricercatore ordinare la psilocibina è esattamente uguale a ordinare eroina o cocaina, cioè vengono considerate ancora come delle droghe estremamente pericolose, e questo crea un sacco di problemi alla ricerca.